Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Iniziamo dando una rapidissima occhiata alla situazione playoff, considerando che al solito registriamo di mercoledì pomeriggio e tenendo conto che a livello di posizioni probabili la situazione appare destinata a mutare di giorno in giorno, di partita in partita. Partiamo da est, dove le questioni appaiono un tantino più semplici. Toronto sembra ben incanalata a concludere la stagione regolare con il primo record di conference, e non potrebbe essere altrimenti se si considera l'apporto delle seconde linee, la strepitosa stagione di DeMar DeRozan, la qualità in continua crescita di Valanciunas al centro. Si tratta di una sorpresa, soprattutto se pensiamo ai ranking previsti ad inizio stagione, che facevano pensare ad uno scontro al vertice tra Boston e Cleveland in quella della Eastern Conference. I Celtics, per la verità, chiuderanno 82 partite di alto livello, considerando la solita e mai dimenticata perdita di Gordon Hayward in avvio di campionato, seppur con il freno a mano tirato in vista della post-season, per coprire anche qualche lieve acciacco. Non sembra infatti star benissimo Kyrie Irving ultimamente, il che può anche un po' preoccupare. Cleveland invece continua a scendere, sostando al quarto posto al momento in cui stiamo registrando, con un LeBron James troppo solo a guidare una squadra in cerca di equilibri e direzioni. Sorprendono gli Indiana Pacers al terzo posto, sorprende la Washington senza John Wall subito dietro i Cavaliers, con serie possibilità di sorpasso. Dietro ci sono Sixer, Bucks e Miami, che si contendono le ultime tre posizioni. Importante perché si tratta di tre squadre noiosissime da incrociare al primo turno, che potrebbero seriamente creare problemi ad una Boston magari un po' scarica, oppure ad una Toronto che al solito cambia approccio dopo la regular season sgonfiandosi. Almeno così è successo negli anni passati. Strategicamente la situazione di uno scontro al primo turno con Washington appare veramente ideale per i Cavaliers, che forse, a voler sempre credere che James sia capace di calcolare e manovrare anche l'incalcolabile, non casualmente sembrano vivacchiare tra la quarta e la quinta posizione. Vedremo come finisce, comunque si stanno materializzando risultati potenzialmente incerti in questo lato d'America. In realtà anche nell'altro, perché ad ovest l'incertezza è tutta a livello anche di qualificazione. In coda si sgomita di brutto e, ad oggi, lo sottolineo, appaiono esclusi eccellenti. Saprete esattamente che mi riferisco ai San Antonio Spurs, destinati a chiudere una stagione già dal record negativo rispetto alle ultime ere in relazione al record esterno, che presenterà, comunque si chiuda, più sconfitte che vittorie. Squadra sfortunata e scricchiolante, che una volta per tutte dimostra comunque che il processo di svecchiamento è necessario ed attuale fin dal prossimo mercato. L'attuale nono posto in classifica, con tampinamento ravvicinato dei Nuggets al decimo, prevede necessariamente un rientro di Kawhi Leonard per correre ai ripari. Quando ascolterete questo podcast, tra l'altro, dovrebbe essere già avvenuto. Ma sarà sufficiente un giocatore ai box praticamente da inizio stagione, destinato ad essere meno che a mezzo servizio, in una rincorsa che comunque servirebbe solo a confermare un record di franchigia relativo alle partecipazioni consecutive? Forse tanto varrebbe arrendersi al proprio destino e giocarsi la sorte nella lottery, in quanto esclusi dalla corsa alla postseason. Anche se comunque ammettiamo che una loro entrata all'ottavo posto potrebbe non essere assolutamente serena per le squadre che sostano ai vertici della conference. Soprattutto toccasse a Rockets o Warriors i San Antonio Spurs al primo turno, sarebbe piuttosto complesso, soprattutto se si considera che queste due squadre puntano indubbiamente al risparmio energetico all'inizio, per arrivare il più riposati possibili o il più in pieno energia possibile alla eventuale finale di conference. In questo momento alla posizione numero 8 sostano comunque gli Utah Jazz, ed anche meritatamente aggiungerei, ma tutto intorno ci sono squadre che si giocheranno il posizionamento al photo finish, ed a parte le prime due nessuna può dirsi al momento sicura di strappare in anticipo un biglietto per la postseason. Dentro ci sono anche i Clippers, rinvigoriti in questa fase, verso i quali però resto piuttosto scettico e prevedo lasceranno spazio proprio alla banda di Popovic nelle prossime settimane, mentre il terzo posto è confermato dei clamorosi Portland Trail Blazers, con il solito Damian Lillard che viaggia a medie pazzesche, come spesso gli accade in questa parte della stagione. Scricchiola, ma sembra tenere per il momento OKC, in lotta con i Pelicans e con i Timberwolves per finire tra le prime 4 dell'8. Houston è al momento la miglior squadra della Lega per gioco, consapevolezza e anche per risultati. risultati e probabilmente è destinata a chiudere la stagione con il miglior record in assoluto, che in materia di vantaggio campo nei playoff vale veramente tanto, anche perché i Warriors appaiono stanchi, annoiati ed in netta flessione, soprattutto senza Stephen Curry. Una finale Rockets-Raptors sarebbe stata imprevedibile ad inizio campionato, ma al momento appare la più auspicabile se si considera chi realmente sta giocando meglio ed ottenendo soprattutto risultati di conseguenza. E questo mi suona comunque sorprendente, devo ammetterlo, comunque andrà a finire. Lasciamo adesso la questione legata al gioco di squadra per passare ad analizzare le individualità di spicco della Lega, provando a lanciare analisi e previsioni in relazione all'award stagionale personale più importante e discusso di tutti, quello che riguarda la corsa per l'MVP, cioè il miglior giocatore della stagione. Ora, è vero che la stagione è ancora piuttosto lontana dal concludersi, ma a mio avviso i giochi sono stati ampiamente già fatti. Come saprete infatti, in questa classifica individuale i risultati di squadra inevitabilmente contano, anche e soprattutto se osservati in paragone con l'impatto del giocatore in discussione. Proprio per questo, se si considerano le quattro squadre che si dividono le teste delle due conference, tutte sostanzialmente già determinate a prescindere dalle bagarre dietro le loro spalle, possiamo valutare quattro giocatori, uno per squadra, che in un'ipotetica top 10 stagionale dei migliori ci starebbero sicuramente, e mi riferisco a DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Stephen Curry e James Harden, anche se potremmo metterci e ci metteremo dentro pure Kevin Durant e Chris Paul. A questo gruppo aggiungerei inevitabilmente il solito indiscutibile LeBron James, un clamoroso Anthony Davis, un Russell Westbrook che è diventato outsider seppur da MVP uscente. Iniziamo valutando questi e senza gridare allo scandalo rispetto agli esclusi, dei quali vorrei parlare in seguito come potenziali MVP di domani per una serie di ragioni. Sappiamo tutti che, in linea di massima, LeBron James sta giocando la miglior stagione della sua carriera per completezza e consapevolezza, anche e soprattutto a suo dire. Che sia il miglior giocatore della Lega e della decade è secondo me fuori discussione. Tuttavia vale la regola dello scorso anno per la quale non può vincere sempre lui, e comunque anche i risultati più che altalenanti in negativo dei suoi Cavaliers non possono passare inosservati. Nella corsa al titolo di migliore mi sentirei di escluderlo, seppur con amarezza e seppur sottolineando che io alla storia che non può vincerlo sempre lui non ci credo, e io personalmente glielo darei pure anche con questa stagione sottotono dei Cavaliers, però insomma presumibilmente sarà piuttosto improbabile. Per quanto abbia presentato un miglioramento a livello di gioco ed inserimento in una realtà evidentemente vincente, escluderei anche DeMar DeRozan, che statisticamente resta il più debole del gruppo, anche perché protagonista di una gran stagione alla guida di un roster ben equilibrato, anche insperatamente. Kyrie Irving invece ha condotto Boston ad essere miglior squadra della Lega per mesi, mostrando livelli di leadership avanzatissimi e stanziando sulle migliori medie in carriera. Tuttavia la sua regular season è apparsa in normale flessione in questa parte conclusiva, in coincidenza con la flessione di una Boston che probabilmente sta tirando un minimo il fiato in vista della volata finale. Potenzialmente Irving è a mio avviso da primo quintetto stagionale, ma non me la sentirei di candidarlo come papabilissimo MVP. All'interno del nostro gruppo ho volontariamente citato come outsider Russell Westbrook, che è comunque protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative per i suoi Oklahoma City Thunders, soprattutto dopo il mercato estivo. Non potrà mai replicare il titolo dello scorso anno, siamo tutti d'accordo. Tuttavia noi che gridavamo al miracolo 12 mesi fa vedendolo chiudere la sua stagione con una tripla doppia di media, dobbiamo prendere atto che seppur con un lieve calo statistico in materia di punti e rimbalzi, di poco, sostanzialmente ci stiamo dentro anche quest'anno. Al momento, per la verità, ci stiamo di pochissimo fuori, il che continua ad essere a mio avviso assolutamente ai limiti del concepibile. Tra l'altro Oklahoma City non è che abbia un record tanto diverso da quello della stagione scorsa, ma è chiaro che rispetto a Russell e ai riconoscimenti l'NBA ha probabilmente già dato, e praticamente lo stesso discorso vale per Kevin Durant, che pur conducendo con numeri incredibili Golden State in assenza di Curry, dimostra di non essere leader naturale della squadra come lo fu nell'anno OKC in cui si portò a casa la statuetta, almeno secondo me ovviamente, confermando la stessa sensazione avuta al termine della finale NBA dello scorso anno, dove KD fu decisamente il migliore in campo statisticamente, ma il più decisivo, sempre secondo me lo sottolineo, risultò Stephen Curry ed il suo impatto anche a prescindere dalle sue realizzazioni offensive. E proprio con Curry entriamo nella mia personalissima top 3 di Chris Paul, seppur fuori dal lotto finale, lo analizzerò in seguito. Secondo me Stephen Curry sta giocando una stagione non inferiore alle due che lo hanno visto alzare il premio in discussione negli anni precedenti, e le sue percentuali al tiro sono lì a dimostrarlo, le sue ottime percentuali al tiro direi. Anche la minor concretezza nel gioco della sua squadra in sua assenza lo dimostra ampiamente, il che dovrebbe suonare come un piccolo campanello di allarme per Steve Kerr, ma ne conferma comunque l'importanza ai vertici della Lega. Lo metto terzo perché proprio in virtù delle vittorie già ottenute è improbabile la sua riconferma, sempre per la solita storia che chi l'ha vinto l'ha già vinto e quindi prima di quelli toccherebbe ad un altro, insomma storia che regge poco, però insomma evidentemente è quasi regola. Anche perché obiettivamente c'è qualcuno che ha fatto comunque meglio di lui ad oggi, e non si tratta necessariamente di colui che metto in seconda posizione, cioè Anthony Davis. Non c'è da rimanere stupiti però, perché i numeri del monociglio più famoso della Lega sono impressionanti, e lo sono ancora di più se guardiamo al dominio assoluto di certe partite avvenute nella seconda metà di stagione, dopo la perdita per infortunio di DeMarcus Cousins, dove i Pelicans hanno accelerato notevolmente migliorando il proprio record per confermarsi potenzialmente tra le prime 8 ad ovest. Davis è più che pronto e solo un contesto minimamente più sicuro sarebbe sufficiente per vederlo favorito il prossimo anno, il che è possibilissimo in quel di New Orleans se la squadra viene riconfermata in blocco, compreso DMC. Al numero 1 invece un nome già previsto ad inizio anno, ma non per questo non impressionante nella stagione che sta portando a conclusione. Si tratta di James Harden. Il salto di qualità dei Rockets, come già detto nelle puntate precedenti, passa da un completamento intelligente di un roster adesso indubbiamente più ampio, dall'innesto decisivo di Chris Paul e dalla conseguente crescita di un certo contorno di livello. Ma non si può prescindere da colui che sarà probabilmente il capocannoniere della Lega per spiegare la probabile miglior stagione di sempre in termini di record della squadra texana. Harden aveva perso la corsa all'MVP 12 mesi fa per un pelo, vantaggio del già discusso Westbrook, ed in questa stagione è riuscita a migliorarsi a livello di impatto statistico, riuscendo ad apparire per lunghi tratti molto meno in imbarazzo di quanto visto negli anni scorsi nella metà campo difensiva. Questo anche e soprattutto grazie al sistema di D'Antoni, che offensivamente gli ha costruito inoltre una situazione ideale intorno dove poter a piacimento accendere o spengere la luce dei compagni o la propria quando lo ritiene necessario. Chiaramente certi cali di concentrazione esistono e resistono, ma la stagione perfetta è impossibile da vivere. I suoi difetti, seppur non annullati, emergono notevolmente di meno in una situazione che al momento è complesso non poter definire da titolo per risultati, gioco ed affiatamento. Come saprete non sono esattamente il primo fan del gioco del barbone, l'ho sempre detto, ma non posso che allargare le braccia guardandolo in campo con Houston, per quanto sia convinto che l'elemento decisivo nel salto di qualità sia stato Chris Paul, e che lo sarà ancora di più quando la palla inizierà a scottare in post-season. È all'ex playmaker dei Clippers che dobbiamo applaudire guardando la crescita statistica di Clint Capela, divenuto in quel sistema di gioco uno dei centri più decisivi della Lega, un giocatore che avevo stroncato in una delle primissime puntate di questo podcast dello scorso anno in una valutazione che ancora oggi mi genera notevole imbarazzo al solo ripensarci. Capela, intendiamoci, è cresciuto tantissimo anche da solo, soprattutto come controllo del corpo, ed indubbiamente riceve gran parte delle assistenze decisive ai suoi punti proprio dagli scarichi di Harden, ma secondo il sottoscritto ha beneficiato maggiormente dell'organizzazione di gioco imposta, quando in campo, dal playmaker con il numero 3. Ci sono pochi giocatori capaci di migliorare un sistema con la sola presenza nella Lega, ed uno di questi, c'è poco da fare, secondo me è Chris Paul, anche e soprattutto grazie a lui, lo stesso Harden è il favorito assoluto per la vittoria del premio relativo al miglior solista della Lega. Almeno queste sono le mie previsioni. Ho tenuto fuori da questa analisi un giocatore come Giannis Antetokounmpo dei Bucks, ne sono consapevole. Un giocatore che sta giocando una stagione assurda, mostrando ancora margini di miglioramento ampissimi. Lui è uno di quelli del futuro, così come lo è Damian Lillard, che per la verità continua a confermarsi a livelli stratosferici dal tempo, e così come lo è il potenziale centro più dominante nella Lega di domani, cioè Joel Embiid. Servono contesti più solidi da un punto di vista di record per questi tre giocatori per poter ambire seriamente ad essere candidati al premio, ed in tutti e tre i casi potrebbe trattarsi di maturazioni prossime a livello di squadra, magari nel caso di Portland con un innesto decisivo per il salto definitivo di qualità. Avremo modo di vedere e valutare tutto ciò nei prossimi mesi o nella prossima stagione, chiaramente. Per quanto riguarda invece la puntata di questa settimana di NBA Week, giungiamo al termine qui. Appuntamento rinnovato per la prossima. Seguiteci, se volete, anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama, come sempre ripetiamo, NBA Week. Per ascoltarci, comunque, gli appuntamenti settimanali restano i seguenti. Tutti venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.